che fu, Cavuru? Sì, Cavuru. Ma che se lo paghi lì, se non te ne a fuoco, vai tranquilla. Il problema è che questo cambio è stato affrontato, qua con un po' di capo, capichetto, che non mi ha tirato pure, poi mi nascono all'officina a lo controllare, poi mi fida in mezzo a me a passare filo e filichetto. Ma si hanno l'officina per una laius. Cool.